tramite una vite. Sapete come va messo o c'è una posizione, c'è una misura? Boh. Non lo so. Chiedo a Antonello che lui probabilmente è più aggiornato. Avanti Antonello. Guarda. Mi vedo a dire la verità. Perché la dico la bandiera sì. Fate un bide più che altro, quindi lascia perdere. Ma non la prendo neanche per scherzo a regolare, perché intanto quando piove va in conto, il discorso è quello, quindi a un certo punto lascia perdere Massimiliano. Vabbè, cosa avete anche così di te? Io ho chiesto un'informazione sull'Arringo, poi se entra acqua, se non entra acqua, non sono problemi miei. Ho chiesto se c'è una misura precisa dove va attaccato il tuo filo. Da voi, cosa di una futtica, la devi piazzare, allora devi piazzare. Ma te lo sto dicendo, perché cioè, vabbè, comunque, installa, dirgli a quello di installarla, poi non c'è problema, tanto ti chiamate, quale problema, scusa? Ti rispondo con quello che mi hai detto tu, a un certo punto, perché la cosa così è chiara, purtroppo la lingua è fatta così, non si può fare niente. Sì, ma ancora non mi ha risposto alla domanda. Lascia perdere tutte queste cose, entra acqua, va qua, va là, va lì, va qua. Dal PL parte un filo, ha una posizione, ha una misura, sì o no? Voglio capire, questo voglio capire. Oppure posso attaccarlo dove voglio. Già fissa la fabbrica, non devi toccarla, se scosso è quello, ma basta. Andare, ok. Dopodiché, vedrai tu cosa fare, a un certo punto, quello non lo so. Vai Gianni, riprendi. Io non ti posso dire nulla, Massimiliano, a proposito, perché non l'ho mai avuta la vita, non so, non la conosco come a te. E niente. Ma non c'è ancora un depliano, qualche cosa per legge? Già, non c'è niente, ok? Se l'ha comprata questo amico che vuole entrare, vuole fare due chiacchiere. Non vuole spendere soldi, c'aveva un Arringo chiuso e imbustato. Capito? Non c'è misura, non c'è niente, tutto qua. So che l'altezza è 5 metri, però siccome c'è un filetto attaccato alla spirale, volevo capire quello dove, se c'avevo una misura, boh, tutto qua. Ok, va bene, come l'ho detto, vai Robè. Purtroppo Massimiliano non ti posso aiutare, se fosse stato male qualche antenna che conoscevo, ben volentieri ci mancherebbe. Ok, e vediamo se c'è qualche donato qua sul canale 10, li abbiamo nominati tutti, Riccardo, Massimiliano, Antonello, Natalino e Gianni. Vediamo se c'è qualcuno che mi sono dimenticato, avanti, se no riprendi tu Natalino che farei girare a Riccardino, avanti. Nuda, vai Riccardino. E che antenna hai preso? Perché tu anche con questa mi arrivi bene, Enrica. Santiago 9, Radio 5, da parte tua. Ok, qua mi arrivi benissimo. Anche a me arriva lo stesso segnale. Ma c'hai una posizione, Riccardo, dove puoi metterla in un punto alto oppure, come ti posso dire, devi togliere quella che hai adesso e metterla lì? Hai una posizione obbligata? Ok, va bene, allora. È una buona antenna la Sirio, no? Cos'è? Sirio Tornado, cos'è? Sì, è buona, la conosco. Una buona antenna, dai, più o meno siamo lì con la Mantova. È quella che sostituisce la Mantova Tubo, hanno aumentato i radialini, cioè 16 radialini, ma è la sostitutiva della Mantova Tubo, è un'ottima antenna. Non l'ho mai vista fisicamente, però so che è una buona antenna. Ma Riccardi, dove la metti? Sul tetto oppure fa parte del palo da terra? Pensavo la mettessi sul tetto della casa. Ho capito, palo così tubo d'acqua. Ma ascolta, ti volevo chiedere, ma non hai la possibilità questo tubo, al posto di farlo partire da terra, metterlo sul tetto magari, dove c'è il tubo già dell'antenna TV, con delle staffe, bloccarlo lì e fargli dei tiranti? Domanda. cosa li fa se è pesante? Una volta che è tirantato non succede niente la pesantezza. Massimiliano, però lui ha un garage, diciamo una specie di casupola, dai, lontano dalla casa, è attaccato a parete, per sicurezza forse è meglio lasciarlo così perché non fa troppa sollecitazione, dai, perché se lo metti sul tetto è un problema fissarlo, perché è un bel pisante quel palo che c'ha lui. E comunque anche allora messo così dal muro vuole tirantato lo stesso, eh. Quanto è alta? L'antenna sarà alta a 7 metri sicuramente. Sì, è come l'alta a 7 metri. 7 più 6 sono 13 metri in tutto lui c'ha, però se vedete c'è, sono 3 metri di bordo del tetto, dai, poco meno di 3 metri, tu fai conto un parallelepipedo e c'è attaccata a un coso, questa antenna in parete, il palo, non l'antenna, e poi ci sono, sono 3 metri, sono 3 metri oltre il tetto lui va. È poco sempre. Basta mettere dei tiranti, metti 4 tiranti, non è pericoloso. Puoi mettere un palo maestro un pochino più grosso e poi quello da 6 metri messo dentro, capito? In modo che quello grosso ti fa un po' la piede. Poi ci metti una corona con dei tiranti e si è a posto, tranquillo, no? Se è tirantato bene non va da nessuna parte. A posto allora, domani ti voglio sentire 9.30 qua, Ha capito che sta facendo una trazione che schiaccia il coso agli uccellini, come si dice, e sono proprio ansioso di sentirlo con quell'antenna. Qua arriva 9 più 5 così con la gran play piccolina, figura di quando abbiamo una mantova che fa un po' di danno da quelle parti, e dobbiamo dire oh abbassa che sei troppo forte. Va bene, chi è che è rimasto? Dai, avanti Natali, fa girare. Ecco. Avanti il brecco. Ciao, buonasera a tutti. Oh Robè, mandami il numero di Giovanni, che mi stava cercando stasera, mi ha detto Antonio Riserva, che voleva delle informazioni su quel 7008 che c'ha, che io l'ho avuto. Mandami il numero su WhatsApp. Ehi, a cacchio class, sei venuto tu per dire alle 9, un esempio. Lui alle 9 e 3 minuti è venuto. Come sei uscito tu è arrivato lui. Ha detto se arriva 2 minuti prima mi trovavate. Aspetta, lo mando via WhatsApp. Ok, grazie. Buonasera a tutti, riprendete. Ciao Claudio. Non rimani? No, devo telefonare a Giovanni. Riprendete, ciao. Ciao. Vabbè, a chi tocca? Riprendi tu, Massimiliano. No, avevo rilanciato a coso, come ti chiama? A Natalino, ma non c'è Natalino. Giappa. L'abbiamo rilanciato già due volte, Natalino. Lo sta facendo il microfono, oppure sta aspettando il microfono, oppure sta cenando, dai. Ok, no. Giappa. Saluto a Claudio, scusa, ero un po' distratto. Va bene, e anche io un paio di passaggi e poi vado via. Me la fendisci di capo questa antenna. Ah, ma la stavi piazzando, Massimiliano? Sì, va bene, Riccardi, siamo qua. Ehi, la stavo piazzando, ma mi stava facendo uscire di testa il coso, come si chiama, questo filetto che non so se ha una posizione strategica, c'è una misura, capito, sto facendo un taucchio. E beh, provare ad andare su internet a controllare, a vedere se ti spiega come piazzare. E andrò su internet e dopo vedo un po'. Adesso l'ho messa lì, l'ho fatta lunga 5 metri perché so che va a 5 metri. Avano la giugana attaccarle un PL, fare non ne ho proprio voglia. Domani se ne ho voglia la appoggio su un paletto così, giusto per provare se da stazionario o cosa del genere. Se non è stazionario va bene. E infatti, interessante che non abbia stazionario, che non ti dia mattana a quello. Ma magari su internet c'è la spiegazione. Scrivi voltaggio, come si chiama l'antenna, non me la metto di manco. Ti dà come si fa a montare. E una LEM della Ringo, eh. Ringo, avanti Pomponios. E vabbè, non riprende, ok. Niente, non lo so, vediamo un po'. Sì, dai. Ah, piano, già si trova il Eh già, se non si trova me, mollo quattro fascette, gliela rimetto dentro la busta e si la fa sbiazzare. Aspetta che vado a prendere il cilindro. Ma quante radiali c'ha con l'antenna? Quella a 5 o quella a 4? Massimo? Non è a radiali, c'ha solo la spiraletta e basta. Però attaccata questa spiraletta, una volta che è bloccata con delle fascettine, capito? Due ferretti a L, va, che bloccano la spirale, e poi c'hanno questo filo collegato alla spirale, capito? Ehi, ce l'ho qua l'immagine, Ringo, l'M è una mezz'onda, ce l'ho in fotografia, c'ha questa specie di spirale, ma penso che sia da accordare con l'antenna, perché c'è questo filo che attraversa, non la conosco, ce la sto guardando qua in fotografia, io ho la figura, però c'ho il catalogo della LEM, però non è che sia molto chiara come quanto sono le misure. Adesso vediamo un po'. Registrato. Vediamo, adesso l'antenna io l'ho fatta a 5 metri, proprio non dalla spirale ma proprio dalla base, capito? L'ho portata a 5 metri, poi vediamo un po', quasi pure che adesso è piazzata e bisogna collegare il PL e vedere un po', quasi pure ha avuto culo e non ha stazionario, boh. C'è stato un break, avanti il break. No, diciamo già te la ricevo, la radio 9.5, Santiago 9, radio 4, tendente al 5, non so se ti ascoltano gli altri, avanti, chi c'era? Massimiliano, se l'ascolti poi per doppio room. Sì. Sì, lo ascolto molto molto basso. Ciao, chiudo rugginoso, vai. Buonasera, ben ascoltato non te lo posso dire. Santiago 1, Radio 1. E cosa riprendo, va? Sei a livello braghetta. Dai, rilancio la doppio ru, vai Gianni. Aspetta che ho trovato come si muove. Dal fischio del Gavino, avanti Gavino. Ciao, buonasera a tutti, Roberto, Massimiliano e Doppio Rum. Un saluto, sono rientrato e non sono nascosto. Ecco, K, andà bene, ciao Gavino, sì, registrato il break. Ciao Gavino, ben ascoltato, mi sembra che è entrato anche lo prefetta, vai lo prefetta. Ciao, vai. Vai Gianni, lo prefetta. Permesso, posso entrare? Sì, buonasera a tutti. Massimiliano, passa sul 20 un attimo. Cappa, un secondo, questo è greco. Sì, ok. Gavi, tu sai come il film del piedino, col fischio o senza, te la mente. È inconfondibile. Non l'ho mai sentito, no, è troppo simpatico, non l'ho mai sentito, infatti dal fischio ti ho sentito senza parlare, pif, agito il Gavino, è inconfondibile. Ok, chi c'è? Doppio Rubo avanti, e poi c'era Natalino, stiamo cercando di rilanciarlo ma non ci risponde, e poi c'è da Muros Claudio che è con un portatilino, non so se Gianni l'ha ascoltato, avanti Gianni. Vai di nuovo Claudio Ramuros, ho notato che ti sei spostato un pochettino, probabilmente ti sei abbassato di radio, sei quasi 9 più 5, anzi quasi, sei 9 più 5, tendente a 9 più 10, radio 5. No, la radio è bella, bella chiara, complimenti, mi piace. C'è anche Gavino, avanti Gavino, se l'hai ascoltato a Claudio Ramuros. Sì, l'ascolto abbastanza bene, Santiago 9, radio 5, sì, va bene, va bene. E intanto te ne accorgi dal fruscio, se era poco fruscio la radio è ottima, Santiago lo stesso. Ma Gavi, ma tu sei pulito o ti sei aiutato? Pulito, 2 watt e mezzo. No, 9 più 20 qua, segnale tuo, bello forte, complimenti. Ok, vediamo se Natalino è rientrato. Natalino ci sei? Non so se si sta ammattando per un microfono. C'era poco fa Alessio, non so se ci sei ancora perché non l'abbiamo rilanciato. Ci sei? Io già Antonello, ve l'ho chiamato Alessio. Antonio avanti. Non v'è, Massimiliano e cosa? Si sono spostati. Chi c'era? Il profeta lo stesso con Massimiliano. Claudio, Riccardino, non so se ci sei ancora. Riccardino ci sei ancora? Forse era ancora X. Non ho sentito, c'era anche Marco che dice stava buttando la pasta, Marco, come si chiama, Condo, poi non so se ci sia qualche donato, avanti, chi vuole entrare, se no riprenditela tu, Gavi. Io, sto parlando alla distanza del microfono, 30 centimetri, come si sente? No, la radio è bella, forte, chiara, ti stai portando appresso una ventola, comunque la radio è chiara, leggermente rasina ma è pulita, chiara 5, perfetto. E anzi, a questo microfono ci ho messo anche un antisoffio, proprio per non far sentire la ventola di questo alimentatore, si sente comunque, non può ancora. Io poi si sente, ma è un amplificato da tavolo o manuale? È amplificato da tavolo, sì, vecchio stampo, adesso non mi ricordo che modello era questo, e comunque c'ha il potenziamento del volume, è un buon microfono. Ah, non è un più 4. Sai che non mi ricordo adesso che modello è questo, caro Massimiliano, lo sa. Allora, se c'ha l'MB più 4 c'ha solo il controllo del volume, l'MB più 5 c'ha l'indicatore, anche uno spinterino che ti dà la modulazione, e l'altro, cos'è, più 9 c'ha anche l'eco. E l'MB più 4, allora, sì, c'ha il look e il volume. Sì, l'imitazione è povera del coso, però funziona più che bene, dello dettaggi, vedo dettaggi del TAN più 3 l'hanno fatto di tutti i modi col microfono, la forma le hanno copiati e stracopiati, ma è originale o gli hai fatto modifiche? No, originale, quindi adesso sono distanziato dall'alimentatore, si sente adesso il fruscio? Un po' di meno, no, non è fastidioso, naturalmente io ti ho detto si sente, non è che sia fastidioso, anzi l'avrebbero voluto un po' di gente, una radio chiara come questa qui. Ok, io mi devo allontanare 5 minuti, scusatemi un attimo, arrivo tra poco. Avanti Claudio da Muros e poi li farai girare. Robby, un attimo. Sì, Giovanni, dimmi veloce che mi stanno chiamando. Più tardi ti puoi collegare che devo provare quell'apparecchio. Vai, ti chiamo al telefono, dai, ci sentiamo dopo, dai, ma lontano un attimo. A voi, ciao. Non c'è rimasto nessuno qua. No, sono bracco, no. Anche io adesso vado a mangiare, sentiamo. No, con Roberto devo fare una prova di un apparecchio 144 perché diciamo non sapevo bene le istruzioni, no? Quindi più tardi dopo cena facciamo le prove. Ci sei tu in questo canale, tu sei Gianni da Muros, è abbastanza bene un segnale di 5 circa. Ha buttato qualcuno. Dai, sono Gianni da Muros, scusa, ciao, volevo salutare anche da Ruggerizzo e anche a te che siete entrati. Io mi sono spostato un attimo, ma sono ritornato subito. Mi sentite tutti e due. Tocco a tuo padre, ci siamo fatti la chiacchierata ieri notte. Santiago 4, una radio così chiara non l'hai mai avuta. Kappa, dai. E se non mi vai alla GBC e c'è quel Midland omologato che c'ha le bande laterali tutto quanto, ma costa 300 euro. Kappa, dai. Vabbè, rilanciamo a Franco, dai, così ci dice qualcosa a lui. Io riprendo per salutarvi invece, dai che devo scendere giù e mi devo controllare la l'ultimo che è entrato chi è? Ma non se ne è capito nulla, vi siete sovrammodulati con Massimiliano. Ciao Massimiliano, dai, buona serata, se vuoi poi siamo qua. Avanti Branco, dai, di nuovo, poi fai girare per il Calvino che parchi. Ho capito. Chi sei tu? L'ultimo che ha modulato chi è? Se stai dicendo a me sono doppio rum. Doppio rum, un liquore buono naturalmente, non mi arrivi molto fortissimo. Ecco una radio diciamo di 5. Ricadì, vieni avanti perché io purtroppo adesso vado a far carica batterie. Forse se n'è andato, perché mi ha mandato un messaggio che se ne andava se non facevano entrare, non riusciva a entrare. E mi dispiace io, ma io stasera Riccardino l'ho copiato con un segnale buonissimo, ci ha messo la Grand Plain, prima è entrato con un baracchino portatile e lo copiavo poco, poi diciamo ha messo la Grand Plain, lo copiavo benissimo. Riccardino, se ci sei vieni avanti perché io sto salutando adesso gli amici che vanno a fare carica batterie. Non l'avevo chiamata a cena, dai. Ti saluto allora, cordialmente, se stai andando a fare carica, buona carica, ci sentiamo. Chi è rimasto, avanti? Ah, stavi bene, ciao. Ma Roberto è andato via, eh? Roberto è andato via e riesce a buttarli adesso. Ah, vabbè, dai. Riprendi Chioda Ruggini, tu puoi far girare io. Sto per andare via anch'io, che devo portare giù il cane. Ma voi i cani ancora ce li avete, o Chioda Ruggini? Ah, che peccato. Vabbè. Bisogna educarli dai cani. Bisogna starli appresso. Quando li lasci così liberi, è quella la ragione. Non solo il paese, le diciamo che è una cosa nazionale, che ci vuole patentino, ma non so se l'hanno approvato, ci vuole patentino per i cani aggressivi tipo pitbull, che posso dire dog argentini, tanti cani di... sì, è un cane palestrato. No, quando creano problemi così è un casino, perché poi alla fine che morsicano a qualcuno e ci fa si guai. Sono cani, io ho un collega che ce l'ha, cane corso femmina, praticamente è più cattivo del maschio, ha detto che è entrato questo cane del vicino, è andato il vicino, cazzo, col cane tutta brandita, l'orecchio, cazzo, tutto stracciato, e l'ha fatto un bel male. Ha detto, ma i cani tuoi l'hanno morsicato? E lui ha detto, no, i cani miei come hanno fatto? Che c'era la rete, invece si è dimenticato il cancello aperto. E sono scappati fuori, sono andati da quel cane che c'era la campagna vicino e l'hanno mazzato forte. Sono cani che bisogna avere un carattere molto duro con quei cani lì, perché se sei morbido di carattere è meglio non averli, bisogna sapere gestire quel tipo di cani. Per quello che danno campano troppo poco, dovrebbero campare 100 anni. io. Il Massotto, voi avete il Massotto in tedeschi, vero? Non so. Però c'è il fatto che ti piace un tipo di razza, capito? E a me vabbè, gli animali piacciono tutti e io sono appassionato di tutti gli animali, sono proprio io ho avuto tutti gli animali possibili e immaginabili a casa, ho avuto scoiattoli, ho avuto criceti, ho avuto l'allevamento di cavie peruviane, quelle pelose però, quelle belle, poi c'ho l'allevamento di canarini, c'ho il cane, c'ho l'acquario tropicale, insomma, gli animali ne ho avuto tantissimi. Vabbè, le coccolite, a me piace anche il canto degli uccelli, i pappagalli non è che cantano bene, dico la verità, però sono vivi. Tu devi sentire adesso che sono in amore come cantano i canarini, e sembra di essere nella foresta la mattina, dalle 7:30 cominciano, ma gorgheggi allucinanti. Le coccolite sono quelli piccoli e non parlano, infatti ho detto che è strano, non possono essere coccolite che parlano, io non ho mai sentito la coccolita che parla. Ciao, ciao, che da Ruggito, dai, a parte Riccardo. Stavo dicendo, quanti ne avete di quei pappagalli? Ah, sono maschilotti. E figli non ne hanno mai fatto. Chi hai detto? Il genero di un'amica mia c'ha l'allevamento di pappagalli, di quelli grandi, di quelli che parlano, ma ne ha un baby, c'ha un allevamento grosso. Non lo so, non te lo so, no, questa amica mia, no, non è veterinaria, è praticamente il genero, è il marito della figlia che fa questo allevamento qua, e ne ha regalato uno, e mi ha chiamato qua disperata, mi è scappato dalla finestra di cucina, lei lo teneva sempre libero, le andava sulle spalle e cose. Cosa gli è successo il giorno? Non so, ha trovato la finestra aperta e è scappato. E invece questi li tenete in gabbia. Domesticarli, ho capito. E vabbè, ci sono quelli che riesci a domesticarli meglio e quelli che non ci riesci, c'è poco da fare. Vabbè, comunque parlano, interessante che parlano. Io li ho visti, sai dove? Sulla strada di Alghero, da quando? Allevati da piccolini. Chi è avanti? Sì, ti sto rispondendo, c'è Eugenio. Qui sono insieme a 21, vediamo un po' se l'ascolto. Già, cosa ha detto? Che l'ho perso? sono arrestato. E dove sei, Luigi? Che ragazzi, ho capito. Dove stanno? Verso Sanse. Ah? Vabbè, che apparato ti ha messo il furgone, Luigi? Hai fatto bene. Mi hai detto che hai tolto tutto dal furgone. Adesso di nuovo lo stai di nuovo usando. Già si sente che c'è Santiago 5 qua, si sente che c'è la grande, la modulazione è bella. E oggi ti ha chiamato Riccardino, lo sì. Ho fatto fare un giro e adesso lo portiamo stasera, lo porta Marco, non lo so, adesso se una gara chissà chi non ha mai gara di arrigare. Se una gara arrigare se lo porto io e poi mi faccio sentire in radio, dai, no. E oggi ho dormito come un porco brutto, gatta la grumita ma giù va. No, io no. Io no, che sto facendo lavori a casa. Sto sistemando la cucina, quindi ero impegnato. E che ora lo porti sto cane, cazzo? Beh, vedrai, sono le 9:15, mi già. E adesso vado, adesso lo porto. È uscito anche alle 4 di Claudio, poi sono le 4:30 siamo rientrati. Adesso lo porto. Va bene, dai, ciao, ci sentiamo dopo, se coincide, se no domani, ciao. Ciao.